Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio, ancora buone feste da Maria Luisa Pezzali. Archiviato Natale e Capodanno, anche noi di Essere Avere ci siamo presi una piccola pausa. Oggi vi riproponiamo una delle nostre puntate speciali, quella monografica tutta dedicata a una delle tendenze più in evidenza del momento. L'abbiamo chiamata togethering, dall'inglese together, insieme, per indicare tutti quei fenomeni in cui il gruppo, la community diventano protagonisti. Sono dinamiche di vita, di acquisto, ma anche di produzione e di business, dal co-housing e co-working agli acquisti collettivi, dallo swapping al marketing partecipativo, fino alle cosiddette attività wiki, attività legate cioè al crowdsourcing, la pratica di consultare la comunità virtuale per la ricerca di contenuti e soluzioni. Questo è il nostro punto di partenza. Alcuni dei brani di Tape Together, playlist partecipata scaricabile online, in cui ogni utente propone alla community le proprie preferenze musicali. Risultato una playlist universale e sicuramente originale. Partiamo da qui allora per il focus sui trend, in compagnia come sempre della nostra esperta Patrizia Martello di Memetic Lab, docente di sociologia dei consumi, analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno a tutti. Insieme è meglio, potremmo introdurre così il tema di oggi. Sì, il tema è quello della co-creazione, della co-produzione, che oggi è decisamente la pratica più influente sull'innovazione, sia sociale che commerciale. Il prefisso co, sempre più diffuso, è proprio l'indicatore dei molti comportamenti partecipativi che riguardano comunità di consumatori, ma riferibili anche e soprattutto ai consumatori e alle aziende insieme. Sono moltissime le aziende che si pongono già in termini di piattaforma relazionale con i propri clienti consumatori, cioè orientate già al fare insieme. Che cosa fanno queste aziende? Raccolgono online e usano feedback e recensioni, per esempio, ma soprattutto coinvolgono consumatori esperti per la ricerca e lo sviluppo di soluzioni, di idee, di contenuti. Dai software alle piattaforme di social media, IKEA per esempio l'ha creata così con i clienti utenti, ai giocattoli, Lego Factory rimane uno dei casi più famosi degli ultimi anni, dai manuali online all'advertising, il social advertising appunto fatto con gli utenti della rete, fino alle correzioni in progress dei navigatori satellitari, al car design, fino alle sceneggiature, eccetera. Questo è il crowdsourcing, come anticipavi, cioè l'uso dei contenuti generati dagli utenti ma non spontaneamente per progetti autodeterminati come i progetti wiki, per esempio, bensì su indicazioni e obiettivi forniti appunto da chi produce. Oggi le persone sono disposte a mettersi in gioco e con la rete, i social network e le tecnologie mobili sono facilmente raggiungibili e ingaggiabili. Si fa leva soprattutto sulla voglia di protagonismo delle persone e sull'immaginario della marca, ancor prima che su motivazioni economiche. Un esempio dal mondo della moda. Ogni giorno per un anno centinaia di utenti clienti hanno caricato su lookbook.nu, il sito del retailer fashion American Apparel, le loro foto con le mise più creative, che poi sono state votate, selezionate, rifotografate da fotografi di moda professionisti e sono diventate il book di stile del marchio American Apparel appunto nel mondo, un book distribuito in 150.000 copie nei 280 punti vendita del globo. Un esempio per dire che oggi le imprese hanno potenzialmente a disposizione le competenze, le conoscenze, la disponibilità dei clienti e dei consumatori a portata di click, una sorta di grande cervello globale che può diventare il reparto di ricerca e sviluppo esterno delle aziende. Ecco perché il crowdsourcing è il togethering è una pratica ma anche un modello organizzativo su cui basare l'innovazione futura. Se ben sfruttato, velocizza i tempi di realizzazione dei progetti, diminuisce i costi, ne aumenta l'efficacia. E il valore aggiunto non è necessariamente nel capitale creativo delle persone. DHL, per esempio, sta testando Bring.Buddy, un sistema di consegne che usa i pendolari sulle diverse tratte urbane di trasporti pubblici o che usano la bici o che vanno a piedi per la consegna di pacchi. Ci si registra nella lista dei fattorini, si accetta o si rifiuta di volta in volta l'incarico, i messaggi sono via telefono, si ritirano i pacchi a un chiosco posizionato sul percorso. Le consegne sono sostenibili, la gente comune trasforma i viaggi rutinari in reddito, un brand affidabile come DHL assegna a un network mobile esterno una parte decisiva del servizio erogato e la cosa funziona. E il gruppo, la rete, la community possono anche rompere un tabù del mondo della pubblicità, dimostrando che uno spot può avere senso e forza anche senza un prodotto e un marchio. È quello che è successo con Perché tu mi piaci, un video che racconta una storia d'amore lunga una vita attraverso una lettera scritta da un bambino a quella che diventerà la sua futura moglie. Un viaggio che va dall'infanzia alla vecchiaia, malattia inclusa. Caricata sul portale Vimeo, o Vimeo se vogliamo rispettare la pronuncia americana, la clip in 10 giorni ha totalizzato 2 milioni di visite in tutto il mondo. Ciao, mi piaci? Te lo dico subito che così non pensi che te lo scrivo per altre cose. Mi piaci da che ti ho visto, non prima che non ti conoscevo e non lo so se mi piacevi. Però da chi mi piaci io penso che ti amo anche. Lo so perché sei bella e hai le lentiggini. E poi anch'io non sono tanto brutto, ma un po' anche bello. Se ti piace anch'io poi ci sposiamo, non oggi che a nuoto. Io ti prometto che quando torno a casa ti porto tutti i fiori del mondo. Ti compro un fioraio e te lo porto perché mi piaci. Ti porterò a cena fuori, ma non un posto brutto, al più bello dei belli. Per te mi farò sempre bello, così che neanche li guardi agli altri, ma solo a me. Se vuoi, quando ci vediamo ti do i baci se ti piacciono. Io li schifo, ma se ti piacciono te ne darò tantissimi, come quelli dei film. Gli autori di Perché tu mi piaci sono 3 giovani creativi milanesi che dopo una serie di esperienze in grandi realtà della comunicazione hanno fondato una propria agenzia, si chiama Cric, e hanno poi deciso di confezionare uno spot non su commissione ma di propria iniziativa, testandolo sul web. Per saperne di più abbiamo in collegamento 2 di loro, Davide Mardegan, il regista, e Clemente De Muro, il copywriter. Buon pomeriggio. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Come è nata l'idea? L'idea iniziale è appunto, io, Davide e Nicolò siamo un trio, siamo 3 amici dai tempi dell'università, e in questi ultimi mesi appunto ci era venuta in mente questa idea qua di lanciare un po' il nostro team in maniera più ufficiale, e abbiamo pensato di farlo appunto attraverso la pubblicità, creando uno spot diverso dal solito. Prima ancora di guadagnarci un cliente abbiamo avuto in mente di far vedere appunto come sappiamo fare le cose, come vediamo noi la comunicazione e qual è il nostro concetto di qualità a bassi costi. Ecco, ma prima di testarlo lo avete proposto ai direttori marketing oppure lo avete lanciato direttamente sul web? Abbiamo fatto prima un giro da qualche direttore marketing e di qualche brand a cui avevamo pensato, ancora prima di produrre lo spot, potesse interessare. Anche a qualche esperto di settore in generale? E le risposte inizialmente non sono state troppo positive, nel senso che un paio di persone effettivamente ce l'hanno cassato fin dall'inizio, dicendo che non avrebbe funzionato, che la gente vuole vedere situazioni allegre, non vecchi che stanno male, e che era quasi uno spot malinconico e che quindi appunto non sarebbe stato vincente. Dopodiché noi abbiamo raccolto la sfida e l'abbiamo lanciato sul web senza alcuna operazione marketing, e nel giro di pochissimi giorni, dopo appena 10 giorni abbiamo già raggiunto 2 milioni di visite. Per un video considerato virale è un numero, diciamo, considerevole. Sì, per un'agenzia pubblicitaria come quella in cui ho lavorato io sarebbe stato un record assoluto, che avrebbero spiattellato su tutti gli annunci, su tutti i post e in tutte le comunicazioni interne e esterne. Quindi di questo siamo estremamente soddisfatti. Eh beh, ci credo. Ecco, inutile chiedervelo, sicuramente voi non vi aspettavate, immagino, un risultato di questo genere. Quale obiettivo di click, di visite vi eravate dati? Noi pensavamo in partenza che già raggiungere 100.000 visite sarebbe stato un successo. E già le 30.000 ci sarebbero, come dire, bastate come incoraggiamento, quindi. In realtà poi, appunto, il risultato che abbiamo avuto adesso è veramente sorprendente e infatti si è visto, perché ha raccolto l'attenzione anche dei media e soprattutto, che era anche quello che interessava a noi, delle realtà del settore della pubblicità. Agenzie e case di produzione si sono accorte di noi, ci hanno contattato, molti blog di direttori creativi e comunque pubblicitari, forum, hanno parlato di noi sia nel bene che nel male. Siamo tuttora dibattito vivo di parecchi blog di pubblicitari. Quando avete capito che avrebbe fatto il botto, che stava facendo il botto? Dopo secondo giorno, direi. Sì, dopo 2 giorni che era online. Il terzo giorno è arrivato a 400.000 visite e abbiamo capito che adesso in un paio di giorni arriviamo a 1 milione, e così è stato. Si è parlato di virus emozionale, sono state molte, insomma, le definizioni che sono state date al vostro esperimento. Qual è, secondo voi, la forza di Perché tu mi piaci, la molla che ha fatto scattare questo consenso? Sicuramente abbiamo scelto una storia interessante. È una storia d'amore, quindi come punto di partenza è qualcosa che può attrarre molto la gente. In secondo luogo, siamo riusciti, per fortuna, a esporre il nostro punto di vista sull'amore. Chiaramente non volevamo spiattellare una cosa, insomma, romanticona, di facili emozioni, ma abbiamo cercato di avere un punto di vista molto più serio e molto più profondo. È emozionale, ma non è mieloso, almeno questo qui è quello che abbiamo cercato di fare e che molti sono riusciti a rivedere nel nostro testo. Quindi, diciamo, ha le caratteristiche per coinvolgere molte persone, ma anche la profondità per non essere disprezzato da quelli che si ritengono un po' superiori ai facili sentimenti. Sicuramente, appunto, le immagini che siamo riusciti a mettere anche in scena sono di una qualità che non si vede solitamente in giro, né nelle pubblicità normali né nei video che girano per internet. Quindi, diciamo, è stato un matching tra contenuto, pensiero e immagini che ha funzionato e che è piaciuto un po' a tutti. Sì, penso che comunque la chiave di tutto sia la semplicità. Ci sono arrivate moltissime email e commenti di molta gente che apprezzava la semplicità del messaggio e la semplicità anche dello stile, di come è stato girato e di come l'abbiamo raccontato, perché di solito lo spot è sempre molto costruito, è patinato, è molto finto, mentre questo è uno spot reale, e gli attori che abbiamo trovato sono delle persone vere. Il protagonista non è il vecchietto col capello bianco ordinato e la dentiera bianca perfetta. Brillante. Sono due persone vere. Così anche il bambino e la sua voce è molto vera. Non è la voce impostata della pubblicità. Non è perfetta. Ed è questo che è piaciuto alla gente, vedere uno spot che non fosse uno spot pubblicitario. Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere Avere, puntata interamente dedicata al focus sui trend. Stiamo parlando di togethering, una tendenza che fa del gruppo, della community, il nuovo punto di riferimento. Siamo in collegamento con Davide Mardegan e Clemente De Muro, regista e copywriter rispettivamente di uno spot sperimentale, chiamiamolo così, senza prodotto e senza marchio, che ha fatto letteralmente impazzire la rete. Ecco, vi sarete tolto anche qualche sassolino dalla scarpa? Vi ha richiamato qualcuno di quelli che l'avevano cassato? Sì, ci hanno richiamato e infatti siamo in questo momento in trattativa con ormai due brand abbastanza grossi e speriamo di concludere positivamente, perché il nostro obiettivo è di andare avanti con la campagna. Un'ultima domanda: oggi si parla molto di marketing partecipativo, di crowdsourcing. Credete che la rete, i social network stiano rivoluzionando molte delle regole della pubblicità, del modo di fare comunicazione? Sì, assolutamente. Siamo convinti che la pubblicità abbia il proprio futuro sulla rete, perché è svincolata da tutte le dinamiche della pubblicità che invece deve andare in TV. Oltre alla potenzialità enorme che ha il web, e non l'abbiamo visto, il nostro spot è stato visto in 150 paesi nel mondo. Un'altra delle potenze sicuramente di internet è che ci sarà, credo per forza, un miglioramento qualitativo della pubblicità, perché i 2 milioni di passa di visite che abbiamo ricevuto sono di persone utenti interessate al video, non sono quei 2-3 milioni che si trovano bloccati davanti alla televisione in mezzo a una partita di calcio, durante uno spettacolo della Rai, un programma televisivo, un film, che si sorbiscono lo spot. Questi qui sono 2 milioni di persone che sono andati a cercarlo, quindi molto probabilmente gli spot che girano adesso con le 4 sgallettate mezze nude, la gente non se le andrà a cercare. Cioè, sono certi spot che hanno successo, fra virgolette, perché sono incollati a un programma di successo, ma messi nel web bisogna vedere se hanno valore, se producono intrattenimento o meno. Se producono intrattenimento, la gente se li cercherà, se li vedrà e potrà affezionarsi al prodotto. Da questo punto di vista pensiamo che ci sia molto spazio per chi è giovane, per chi ha qualità e voglia di fare cose belle. Grazie a Davide Mardigan e Clemente De Muro per essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie. Buona giornata. Patrizia, questa storia lo testimonia. Oggi il gruppo con un click può decretare il successo o l'insuccesso anche di molti prodotti. Siamo in pieno nella cosiddetta Customer Made Revolution, cioè la rivoluzione fatta dal consumatore che, oltre ad infilarsi sempre di più nel processo produttivo, come stiamo vedendo, è diventato anche giudice impietoso dei prodotti e dei servizi che acquista e di cui fruisce. Con il reviewing, per esempio le recensioni, dovendo scegliere un albergo, nessuno va sul sito di quell'albergo, ma va su TripAdvisor a leggere i commenti di chi c'è stato, per fare un esempio. Allora, quello che sta emergendo in questo scenario di fatto collaborativo tra cliente e consumatore, cliente che parla dei prodotti, che fa tam tam, che giudica, che partecipa alla loro produzione, è una variabile critica importante, e cioè la ridistribuzione del valore creato. In altre parole, se una nostra idea viene usata per scopi di business, ci si aspetta di diventare parte del valore generato. Le folle sagge collaborano certamente, condividono con un click, ma con altrettanta velocità appunto si ritraggono, boicottano e fanno tam tam negativo se non riconoscono, se non gratificate, o peggio se usate senza contropartita, che sia in denaro, in visibilità, in prodotti, in opportunità occupazionali, eccetera. Dunque gli esempi di togethering, di crowdsourcing che funzionano, si basano su trasparenza delle regole di collaborazione, fiducia e reciprocità. Vediamo alcuni esempi. Nel campo del turismo, un'agenzia viaggi come la canadese Dream Tour costruisce dei pacchetti di viaggi in bicicletta Africa, Asia, Mediterraneo, ideati dal nome ai percorsi, agli alberghi, al cibo, eccetera, e anche venduti dai bikers clienti, che promuovono i tour tra le comunità di riferimento per raggiungere il numero critico minimo e far produrre quindi il pacchetto all'agenzia e poi fare quei viaggi. I creatori hanno i viaggi gratis, l'agenzia ha un pacchetto originale ed esclusivo da vendere. Ma ancora, nel design, garagedesign.it funziona così: hai un'idea, la spedisci, Garage Design la seleziona, la ingegnerizza, fa un prototipo che mette sul web shop, tu che l'hai avuta e voluta realizzare la ordini dal sito, e raggiunta la quantità minima di ordini l'oggetto che hai creato ti viene consegnato a casa. Garage Design produce solo il venduto che va a catalogo, e chi progetta ricompra e fa comprare. E c'è un bel caso di crowdsourcing applicato alla ristorazione ed è un caso italiano, è Spago Guida 2011, un esempio di progetto collaborativo molto riuscito in rete, pubblicata in versione cartacea da Morellini Editore, ideata e prodotta in soli 6 mesi da duespaghi.it, il food social network di riferimento, con la collaborazione dei suoi utenti. Bene, nella guida oltre 1000 ristoranti schedati, mappati e recensiti, dotati di QR code per integrarsi con il database online, che conta 50.000 ristoranti. Con il concorso App My Ride, Volkswagen è la prima industria automobilistica che ha sviluppato una nuova applicazione di infotainment, con un concorso aperto a tutti, da car designer a programmatori a studenti. Per esempio, tra i vincitori, uno studente ha avuto un posto in uno dei centri di ricerca a scelta tra Tokyo, Shanghai, California o Wolfsburg in Germania. All'insegna della creatività democratica è la Victor Spoils, nata nel 2009, è un'agenzia di pubblicità che si definisce la prima agenzia di creatività che si basa totalmente sui principi del crowdsourcing. Il logo in bianco e nero ha due scritte: potere al brand e potere alle persone. Nella mission del sito si legge: promuovere business con un miglior modo di risolvere i problemi di marketing, di comunicazione e di design dei nostri clienti, coinvolgendo i talenti più creativi del mondo. E un altro fenomeno riconducibile a questa tendenza è sicuramente quello dei tutorial, i video didattici sui social network che insegnano di tutto, dal trucco alla cucina fino al bricolage. Ciao ragazzi, allora questo è il tutorial che avevo sull'altro giorno e l'ho rifatto. È molto neutro, non è troppo pazzo. Prendo un marrone scuro opaco. Allora parto da sotto, ne metto poco, voilà, e questo è l'ho finito. E niente, spero vi piaccia, un bacio! Proviamo sulla nostra fotografia a vedere se ci riesce di trasformarla in una sorta di dipinto. Iniziamo con il crearci un nuovo livello vuoto, quindi con la finestra dei livelli aperta, se non è già presente la troviamo nel menu finestra. Oggi facciamo il lusso bollar. In un pentolino sciolgo il burro, metto lo zucchero e anche il latte. Scaldi a 37 gradi al tatto. Ciao, vuoi realizzare qualcosa di creativo e aiutare la natura? Oggi realizzeremo insieme una lampada da tavolo con le bottiglie di plastica. Non ti resta che provarla. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo su Togethering e dintorni? Ce lo racconta la nostra Urban Watcher Alessia Zampano. Ciao Alessia. Grazie, buongiorno, un saluto a tutti. Dunque, sfruttando l'evidente competenza nel campo, Steinboy era stato chiamato a investigare sulle misteriose tracce di gelatina luminosa rinvenute sul pavimento della galleria. È l'incipit dell'esperimento letterario collettivo lanciato dal regista americano Tim Burton lo scorso 22 novembre attraverso il suo canale di Twitter. L'idea ricalca le sperimentazioni letterarie surrealiste degli anni 20 che andavano sotto il nome di Cadaveri eccellenti, in cui un gruppo di giocatori si alternava alla stesura di un racconto potendo vedere solo la parola finale del contributo precedente. Ma il tutto in questo caso amplificato dalle potenzialità connettive della rete. Della storia, anzi di quella che lui definisce una story making adventure, si sa solo che il buffo Steinboy, il fantasma di un piccolo supereroe, è il protagonista. L'intero svolgimento è affidato alla fantasia della folla dei fan e non solo, dell'eclettico regista, che possono contribuire alla sua costruzione. Chiunque infatti può twittare il prosieguo della storia anche più di una volta, ma ricordiamolo sempre nello spazio di soli 140-160 caratteri, basandosi sull'ultimo tweet, l'ultima frase che il regista stesso e il suo staff selezionano quotidianamente tra tutti quelli postati, che vengono comunque tutti pubblicati. Grazie Alessia. Patrizia, siamo in conclusione. Mai come in questa tendenza risulta chiaro quello che noi di Essere Avere diciamo da tempo. Il consumatore è diventato protagonista, spesso conduce lui il gioco. È un cambiamento irreversibile? È irreversibile sia per protagonismo, ma proprio anche in termini di potere, di influenza effettiva sulle strategie d'impresa da parte del consumatore. Gianpaolo Fabris rappresentava questa nuova condizione del consumatore con l'immagine di un cerbiatto che imbraccia un fucile e guarda compiaciuto il cacciatore disarmato, quindi la tradizionale asimmetria azienda-consumatore rovesciata. Abbiamo chiamato Togethering fare insieme di fatto il prosuming collaborativo. Prosumer è il consumatore che produce, che partecipa al processo produttivo dei prodotti e servizi che poi è disposto ad acquistare. Questa modalità di produzione-consumo in cui il nostro consumatore cerbiatto ha il potere di dire la sua diventerà sempre più usuale e necessaria tra consumatore e azienda. Questa cooperazione creativa si basa su un nuovo pensiero plurale che si sta diffondendo e non più oppositivo tra chi vende e chi compra, tra chi produce e chi consuma. Se vi siete persi qualcosa, cliccate su radio24.it sezione podcast, potrete riascoltare e scaricare questa come tutte le altre puntate di Essere Avere in attesa di risentirci come sempre domenica prossima alle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.